dentro tutto Mario, e anche io ero indaffarato, allenatrice a sinistra, c'è la zia di mia moglie che sono convinto dopo tanto a parlare di tornare all'ospedale, ha avuto l'intervento che doveva fare ed era di mente ed è tutto a posto, la gente la caccia a tutti gli infermieri, ma lo va a me. Interessante, grazie, la vita va da avanti, se non ci sentiamo ogni giorno, quando si può c'è voglia, perché anche a me fa sempre piacere sentire degli amici, volevo dire a Gianni, Gianni, aspetta, ho finito, promosso, è uscito? Sì, tutti e due promossi. Manuela, ma tutti e due promossi sono anche con quei voti. Beh, meglio così, a quale classe vanno adesso? Marco va in terza, Manuela va in quarta superiore. Beh, meglio così, e le saluti da parte mia, a Caino, anche i miei nipotini, due che c'erano in continente, hanno uno che c'erano a Sassari, anche loro sono usciti tutti, ecco la miglia buona, 9-10, 9-10. E lo stesso mio, lo stesso tutti e due miei. Cavalcava le superiori a prendere 9-10 difficile, pure la fine alle figlie. E tu, Raffia, tu non ce n'hai più figli andando a scuola, no? C'hai nipotini. No, ragazzi, i miei figli, la più grande era qui, di fronte a casa, a geometri, e si è ritirata che il tatto dice, ma a me mi servono i soldi ad andare a lavorare, dopo si sta sempre giocata a voi. E l'altra è lo stesso, ha mollato, sta lavorando. L'altra ancora, quella aveva avuto una borsa di studio, però il gruppicino si è ritirato dal guetto e non ha avuto più cara l'andata e non per più andata, ma lo verranno loro cosa vuoi fare, cosa loro. Io la casa mia me l'ho fatta, adesso se la devono fare loro, o no? Un momentino, io mi assento, cioè mia figlia mi deve misurare la pressione già, e la glicemia, magari se ti siete ci prendo dopo. Gianni, per il momento vi saluto anche a Graziano, mi ha fatto molto piacere, grazie, che ti ho sentito. Grazie dei saluti che mi mandavi, eccetera, eccetera, e tutti. Riprendete, io magari lascio acceso, se mi sveglio già, se ci siete già rientro. Riprendi Gianni. Ehi, allora, ciao, buone cose, allora, io devo ancora mangiare, devo fare colazione, ma non arriverà di Pisa, mi sa di si perdere, noi almeno ce lo puoi fare, avanti, grazie. Ehi, ciao Mario, buon proseguimento di giornata, e se ne voglia, fai chiamata, se sono qua già ti rispondo, gava, ehi, ciao. Così ognuno si deve fare la strada giuria. Io gli ero detto se c'è la scuola è sempre meglio, però siete la pensa di così, se di voi, cosa deve fare? E cercherò con un diploma meglio, puoi fare concorsi, puoi fare tutto quanto, non è che sia. Adesso con la terza media che il capitale lì. Quando c'hai le superiori c'è un'altra cosa, non è che valgano più di tanto, grazie, perché adesso se non hai l'università c'è dei posti o di bisogno. Già, la capisci, c'è mia sorella che si è fatto un matto, mi ricordo quando ero in casa di mio padre, piangeva anche esaurita, zira, è stata in cura e sta prendendo la cura. Era diventata una furia qui a studiare, per diplomarsi maestra. Già ce l'ha fatta diplomarsi maestra. A volte che non l'hanno mai presa, solamente la chiamano a fare ogni tanto, così, una volta all'anno, ogni due anni, a fare supplente e blu, ma non qui. Non hanno mai la cattedra fissa così. Lo so. Emanuela, mia figlia sta studiando alle magistrali, però io penso che tengano un po' anche i voti, queste cose qua. ma che sembrava tutti e due, loro si continuano così, diventano canini perché non ne bevuti tutte le mattine. Ma lo sai cos'è? Se non c'hai i piedi, i calci, non le troverai mai, quello è poco ma sicuro. Su 100 persone se lo trova uno così fisso, deve attendermi i candini, perché oggi come oggi, non agati. Puoi avere diplomi che ti piace, tutto quello che vuoi. E come me, chi da me mi aveva detto, mi ti faccio entrare tranquillo a lavorare all'ARS, fisso, ottica, che mi ha fatto massa a prendermi la patente e tutto. E poi niente. E allora, lui... Io non mi dice tutti bravi, io devo entrare in banca, ma con i sardelli era morale. E niente, lo qui. E nonostante, a parte i regali che gli ho fatto io a questo, perché era sicuro il posto. Una volta che mi ho preso la patente di tosse la mia chiesa. Ma grazie alla quattro anni ha. Gli ho detto gli anni e mi ha detto, in caso che hai superato l'età, non ti possono più prendere così. Hai capito? E io mi ho fatto matto andando a scuola la sera quando uscivo dal lavoro. E l'ho pagato tutta a parte quello, perché mi stava facendo piacere, perché quel lavoro che facevo l'orario non è avvenuto. Come diceva quello, prendi l'altro e mettila da parte, poi all'occasione magari può servire o no? Oramai non mi serve più, cosa me ne può? Mi adesso fra due anni ho cosa da una patente, me la faccio scalare, se adesso sono in pensione dall'anno scorso, cosa me ne faccio di queste patenti grandi? Non me ne faccio più niente, cioè le usate quando facevo l'autista. Allora cosa me ne può? Va? Vabbè. E adesso la scala non ha più di pare. Io ho la di più e K, ce le ho tutte le patenti. Allora fa 10, 2 che ci cucini, vabbè non ti rubai un bagno autisti che mi conoscono. Invece da che viaggio, magari a me da che viaggio, io un anno non mi esci di un viaggio, di un viaggio, a te domanda da un bel amico da che viaggio, così. E io grazie alla bicicletta venuta, e allora cosa me la tengo a fare? Fa vedere la patente e fa numero, ma non me ne frega niente. La faccio scalare la B, mi tengo la B e quella della moto, cosa me la fa? La moto ce l'hai cagata. Ehi, c'è un Vespone 125, però è 150 il motore. Me l'avrà fatto Giulio Muritto, me l'avrà venduta lui stesso quel Vespone. E lo volevo, viaggio in garage. È già due anni fermo perché non lo sapevo più usare, non lo so più usare. Infatti, in questi giorni scendo, gli do una puntina alla candela e le posso fare un giretto. E lo volevo, Che colore è bianco? Bianco, con i coppani gialli e fosforescenti. Cava, cava. Io ho capito molto quello di mio Montello, quello... erano due fratelli, prima uno robusto e uno magrolino con i baffi. Ehi, Giulio è quello magrolino con i baffi, Giulio me l'ha venduta. C'è una bella lì, quel palazzo di fronte, c'è un garage lì, no? E certe moto che non li ritirano, poi diventa lui proprietario, se le mette a posto e le lascia in quel garage, capito? Poi se qualcuno la chiede se c'era qualche moto, se sai io lo sapete voi, se passa perché se non è che c'è qualche moto buona seconda mano, ma mi tira a vedere, ci vale già Dio, e ne avevo preso questo pastore, ma lui, aveva, c'era la sella da cambiarmi, una gomma e poi così mi aveva, è il portapacchi, ma poi sulla sella lunga, la gomma lunga era un portapacchi lungo, e me l'aveva venduta, allora c'erano la lira, 700.000 lire me l'aveva venduta. Sono andato, ho fatto il passaggio, c'era lui, tutti un manzano, ho fatto assicurazione e bollo. Oh, no, il bollo ce l'aveva, l'assicurazione sopra. Boh, Ma che sta a posto, mi ha fatto uno scritto, lui dal notaio siamo andati per il libro e tutto. A che magari di chi? A che mai ma più dal notaio che la moto? La moto 700.000 lire, il notaio aveva voluto 500.000 lire. Ti stavo dicendo, io vado a non mi so più per passare col pentale lontano. Cosa? Che adesso non devi più fare la rotta in passaggio in proprietà. No, e non me devi fare, io non lo devi fare. Ti fa fatto l'agenzia, all'Acce, solo all'Acce, basta. Fa fatto roba in mano all'agenzia e fa fatto lì. In giro di un giorno ti fa fatto. Ah, così. Allora secondo me si sta a trafficare i singolzi. Meglio meglio, perché mi ricordo la mattina siamo andati a dar notaio lì in via Lomberto, adesso non ricordo come si chiama, poi siamo andati a quell'agenzia di fronte a quel viotto, alla stazione, c'era un'agenzia. Lui stesso in via Pascoli che c'è l'assaio, l'ufficio della sera, ho fatto l'assicurazione. E una lì, dai, va di brutto, la sera me l'ha data perché mi ha messo la ruota nuova, la sella nuova e il portafoglio. Mi ha dato un'attiva larga, dove è andato a rompere un colpo a questo moto già in garage, che era ferma quasi un anno, ma ha il primo colpo ha messo in moto. Ehi, dal notaio, lì abbiamo fatto veloce, all'agenzia insomma c'era gente, un due ore che abbiamo aspettato, però un giorno tutto fatto. Ma la radio mia come? Perché a me dice che è bassa, che la sentiva bassa prima. A me mi arrivi normale, chiara, pulita, pulita, bella. E magari lui non si sente molto bene, là, sarà per quello. Ma praticata la radio? Sì, un po', ma è bella, va bene, non è con l'amplificazione forte forte, è proprio giusta giusta, è la mia amplificata. Ehi, già va bene. Cosa stavo dicendo? Ma c'è il miscelatore con la moto, c'è il miscelatore per la benzina? No, me la devo fare io, sei un Vespone, è vecchio, come stai, è vecchio, insomma, non mi ricordo di che anno è. Non me lo ricordo. Come moto di età è vecchia, era già vecchia ma me l'ho presa io. L'ho presa 7 anni fa, una cosa del genere. Però, vabbè, è un urinese, il motore nuovo, da 125 me l'ha fatto 150, cioè l'aveva appena rifatto il motore con la moto, però l'ha fatto 150. E mi aveva detto che il padrone non è mai andato a ritirarsi in ira, lui lo chiamava, non c'è mai andato. Alla fine il padrone l'ha dettato in ira. E così è da fatto, capito? Perché una volta dopo tanto tempo che tu porti una moto o una macchina, passa proprietario automaticamente quello lì, capito? E si lavora, lui devi pagare tutto il fermomoto, chi l'ha giusto che gli ha fatto, invece quello là non ne ha più ritirato, evidentemente non aveva più o non aveva birra o non lo so, non ti stai era di bancare, lo conosco pure, un ragazzo che ha anche lavorato con me tanti anni fa come muratore e gliela grattava lei, forse pure si abbia preso la macchina, non lo so. Poi dopo si ritirava, se l'avrà inventata. Anche io c'era un periodo, me la stavo vendendo, si può dirgli un rigarendi, dai, su briccio. La stavo vendendo, lo stesso prezzo me l'aveva lasciata a me. E adesso gli ti faccio a dire, ci ridò con due volte, oppure, qua con la scappare, non me ne domande e gli rimane in occhio. Si è preso il trampolino, da quello che ne dà, riuscire a morte da che ne dà. No, io gli ho detto, se la vuoi, su fare come ho fatto io quando l'ho presa, facciamo il passaggio e tutto, e io ti do un libretto, i bulli, tutto l'altro, se l'avevo sì, ho fatto così quando l'ho comprata, a me chi ti ma il massaggio lo fermo subito, non c'è problema, a me la moto mi piace, mi interessa, e io, e te lo sto dicendo, una mattina ho fatto tutto. Beh, se è bello, se è che c'è per te, ti fai un giro, te la prendi, ma assicuratela. No, l'avevo dato la visita perché l'ho fermata. Comunque ho chiesto, il mese scorso ho chiesto, e mi viene 400 annuale alla SAE, 425 euro mi ha detto. Adesso io vedo, però devo cercare un'altra assicurazione perché semestrale mi ha detto che non li vasi lì alla SAE. E la dice, vabbè, adesso vediamo. Io devo cercare un'altra assicurazione perché poi io se la posso tutto l'anno durante l'inverno non la gratto. Rimane sulla destra invece che sulla sinistra, un po' più avanti. C'è scritto assicurazione dei gruppi. Vai che fa dei buoni critici. A me mi ha fatto un prezzo molto diverso da quello che ci avrebbe. Ascolta, cos'è semestrale? La potrà fare anche a 6 mesi da fare annuale, però magari tu la divi di 6 mesi, penso che si possa fare. Ah, in quelle 180 euro che paghi è annuale, e anche se no è buona così. No, pagavo 180 euro di 6 mesi, adesso con lui mi viene mi pare 130, una cosa del genere. Ogni 6 mesi, e vabbè, però qui la tua c'è anche questo, come cavallo è più potente della mia, dunque dovrei pagare un bel mese di meno, la mia è 125, o no? Beh, è certo che devi pagare di meno. Dunque dovrei pagare una fesseria. E infatti la giudizio a me un lino, non sai cosa mi ha detto con l'assicurazione, 425 annuale. Non che se io annuale non la voglio, perché la voglio fare l'assicuratore per il periodo sì. E mi ha detto che loro non ne fanno. E poi mi ha risposto anche quella dell'assicurazione, perché io ho detto, no, mi sembra troppo esagerato questo prezzo. Non è esagerato perché i danni proprio quelli che si creano sono i motocicli. E io dico, vabbè, adesso vediamo, va. E me ne sono andato. Cazzo, è fatta la gente blume baritrana, è così cara. Ma io sono andato via dalla mia, io l'avevo fatta a Porto Torres, perché la moto l'ho comprata in un negozio a Porto Torres. Visto che lavoro lì, sono andato a vedere lì la moto, e me ne ho ordinata una nuova. L'ho comprata lì, la sicurezza me la fianco, per non stare a salire a sassi, e così l'ho fatta lì. E mio papà preso all'inizio 150 euro, ogni 6 mesi. Questa qui se questa la faceva, e poi non dovevi dare manco disdetta, se tu per dire decidevi di non averla più non dovevi dare manco la disdetta, se non pagavi e basta, era tutto fatto. Beh, fatto sta che è stata la illuida da Iannico, e mi faceva pagare 150 euro all'inizio, poi sono andato l'anno dopo e l'ho aumentata a 160. Certo, quest'anno 180, scusi, ma io non ho mai avuto incidenti, ma niente, invece che di venire mi sta aumentando, e purtroppo è così, allora faccio la cosa, quindi è un foglio che sto facendo la disdetta, ogni biglietto ci va a dare dentro la parte, noi ma siamo capiti. Ehi, hai fatto bene, cazzo non ho capito, però io parlavo anche del giorno che sono andato a ritirarmi il tagliantino, che sono andato il giorno 2, che poi a me mi scadeva quindi si dice, vabbè, io avevo finito, sono andato in meraviglio, però ha fatto bisogno che le rifaccio un nuovo contratto. È il motivo, è perché c'è questo, c'è quello, c'è quello. Ascolti, mi sono qui 40 anni con voi. Senti, questa assicurazione invece di abbassarmi aumentasse solo la categoria più alta. Io ho fatto casinetta, allora per cominciare me ne tolga. Incendi e furti, tanto non me ne posso usare. C'ho il garage e pago 70 euro al mese di garage. Cosa vi dico? Regalare di me abbastanza tutti i soldi che vi ho regalato in tutti questi anni. Poi me ne tolga, quell'assicurazione sta solo perché non è rinnovabile. Adesso avete regalato, me la tenga qua la giudice. 120 euro all'anno regalati. È rimasta così. Il papà se lui mi dica il prezzo quanto devo pagare, solo per fare incidenti. E mi ha detto 250, no, siamo anche già troppo per la categoria mia. Allora gli batte, allora se lì mi fa quattro se io me ne sto andando. E ma non lo può fare perché la macchina la sua, cosa vuol dire non lo può fare? Non si sia pure, il buco buco la macchina. Non si dice che mi piace. Allora mi ha fatto, aspetti, ha mangiato il gonfito, e mi ha fatto 214. E la gli batte, vabbè, me la faccio per adesso, va. E me l'ha fatta così. Siete drabuzzo, se te l'ha fatta la foto che non te l'ha fatta anche tu, non ti fa assicurare. E allora, e non gliel'ho detto, qui ogni anno invece di scalare stiamo sempre aumentando. In 40 anni ho fatto una denuncia, una amica, anche per piacere, a che mi ne l'aiuto qui innanzi alla moto, mi aveva rifondato lo sportello e si è uscito dall'altra parte della macchina, lì l'ha rotta tuia. Per andare a Città Marcato, lì alla Bretella, di lì. Io stavo andando all'ospedale, la mia madre arrivi in su un carotto, allora c'era l'incrocio col semaforo, e mi ne venne innanzi, l'ho visto io, ma era lontano, però poi la presenza era la mia, era verde quando sono passato, e mi ne arrivi da piombo, se ci trovava a salvare. Una volta solo gli ho fatto l'assicurazione per non perdere tempo, lì perché c'era mio padre, mia sorella, stava mandando all'ospedale che mia madre non si sentiva bene, infatti è mucca. E gliel'ho fatta l'indomani. E tu è andata all'ospedale, l'abbiamo ingessato e tutto, si è sacrificato un bel denaro. Però per dirti no, in 40 anni, no, in 40 anni, in 35 anni, perché me lo, da 18 anni ce l'ho io questa assicurazione, una ti va di brillato la prima battente. Dunque, non la devo preso, mi hanno guadagnato di dire. Assolutamente niente, infatti mi devo fare sta male, ma sono con la zura, ma non la cammino in casa, la zura, non mi piace un casino, si può una mangia, se non sarei scesa in garage, ti arriva a pulsa la candela. Ma se lascio questo carne, piatta un casino qui a Simona Pigni, se me lo porto giù in garage, lì a rimane lì per casa sempre in giro, vi aggiunti, o c'era un gastrigheta. E allora, vediamo quando arriverà mia figlia, o se no domani, cosa... A rasura non lo davo. Se no, cazzo, non prende questa cucciù d'ora, di niente. Che faccio anche con lui quello. Papà, grazie a io, vado a vedere che devo andare a contattare a loro, andare al mare, non aggiungare nella verità, ma purtroppo c'è bambini a portare, quindi devo farlo per forza. Ci sentiamo, da. Buona giornata, grazie. Ehi, ciao Gianni, buon proseguimento in giornata, a te, al nucleo familiare, e portare al mare, almeno loro si divertono, si svaghi un po', tanto mi da qui comincia più caldo, inopino più bolso, ma che entrai. Va bene, ciao, alle prossime, ciao ciao. Ciao.